Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È un attacco all'intera Europa. Si è trattato di un attacco particolarmente odioso e orribile perché ha colpito in modo particolare ragazzi e ragazze, adolescenti che con le loro famiglie erano andati per un concerto. E sono state giovani vite spezzate dalla vigliaccheria del fanatismo terrorista. E Gentiloni, naturalmente avete riconosciuto la sua voce, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il Presidente del Consiglio italiano che questo ha detto a proposito del terribile attentato terroristico di ieri sera a Manchester al termine dello show, del concerto della pop star americana Ariana Grande alla Manchester Arena, piena di ragazzini, soprattutto di ragazzine. Avete sentito il bilancio di almeno 22 morti. Si parla in certi comunicati di una sessantina di feriti, in altri 120. Comunque poi ci collegheremo direttamente con la Gran Bretagna e anche cercheremo di collegarci con un esperto italo-inglese di sicurezza internazionale. Ovviamente ogni volta ci si pone le stesse domande, si fanno delle analisi più o meno simili continuano a esserci questi attentati in Europa e queste stragi. Chissà se riusciamo questa volta a dire qualcosa di nuovo che non dipende naturalmente dagli interlocutori, ma dal fatto che sappiamo che è imprevedibile, che non possiamo essere sicuri al 100%, la follia dell'ISIS, insomma, poi vedremo se si riesce a fare un'analisi con qualche dato che possa illuminarci. Poi c'è Trump a Roma, è arrivato il presidente americano nel suo tour internazionale, domani vedrà il Papa e il presidente Mattarella, oggi a Villa Taverna, nella sede dell'ambasciata americana. Parleremo anche di questo suo viaggio e poi un ricordo fra i vari temi che affronterò stasera con gli ospiti, anche un ricordo di Roger Moore, amato attore britannico che è morto all'età di 89 anni. Per i vostri messaggi, per i vostri commenti sui fatti del giorno, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è sempre quello 349-238-6666. Prima di tutto, riassunto della giornata. L'attentato a Manchester, sono 22 i morti tra bambini e adolescenti, 12 dispersi, 120 feriti. Il kamikaze è un libico-britannico di 22 anni, noto alla polizia. L'ISIS rivendica la strage. Allarme in Europa, la prima ministra britannica May sottolinea: i terroristi non vinceranno mai. Il Viminale comunica attenzione alta, vigilanza sui luoghi affollati. Trump è a Roma, capitale blindata, domani l'incontro con il Papa e poi con Mattarella. La strage di Capaci 25 anni dopo, l'Italia ricorda Falcone, Mattarella gli rende omaggio a Palermo. È morta la triatleta tedesca, come Nick Hayden era rimasta vittima di un incidente stradale, travolta da un camion in Romagna, era ricoverata al Bufalini di Cesena, ha donato gli organi. Addio Roger Moore, aristocratico ironico, fu 7 volte James Bond, aveva 89 anni. Ciclismo, Nibali trionfa nella 16ª tappa del 100° Giro d'Italia. E partiamo quindi dalla strage di ragazzine e di ragazzini a Manchester, strage al concerto della pop star americana Ariana Grande alla Manchester Arena, piena di teenager, dove un kamikaze si è fatto esplodere, almeno 22 morti, anche una bimba di 8 anni, 120 feriti, 12 bambini sono in condizioni gravissime, 12 persone risultano disperse, nessun italiano risulta coinvolto. L'ISIS ha rivendicato l'attentato, è stato arrestato un 23enne che sarebbe collegato all'attacco, identificato il kamikaze Salman Abedi, che è un britannico di 22 anni, noto alle autorità. E tra poco, come vi dicevo, ci colleghiamo con la Gran Bretagna e anche in Gran Bretagna dovrebbe attenderci un esperto, il direttore degli studi sulla sicurezza internazionale al Royal United Services Institute. Nel frattempo c'è naturalmente tutto il fronte delle reazioni, quelle italiane e quelle europee. This attack stands out for its cowardice, deliberately targeting innocent, defenseless children and young people. L'Europa e il mondo si stringono intorno a Manchester per un attentato che la premier britannica May ha definito codardo, per avere voluto colpire innocenti come i bambini e i ragazzi che affollavano il palazzetto. Di una nazione scioccata, di atto barbaro ha parlato la regina Elisabetta, di un atto malvagio il neo sindaco di Manchester Andy Burnham. Ma tutti hanno sottolineato che Manchester e la Gran Bretagna non si piegheranno al terrore. A sostenerli in questo ci sono gli altri paesi europei. Se c'est aussi notre volonté de renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Den Menschen in Großbritannien versichere ich, Deutschland steht an ihrer Seite. Come ha fatto il nostro premier Gentiloni, anche il presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel hanno dichiarato il loro sostegno al Regno Unito. L'Europa e il mondo intero reagiranno, ha detto il presidente del Parlamento UE Antonio Tajani, ribadendo che contro il terrorismo serve un FBI europea. E se Papa Francesco ha parlato di un insensato attacco di violenza, una dura condanna è stata espressa anche dal grande imam di Al-Azhar, il più influente centro teologico universitario dell'Islam sunnita che ha sede al Cairo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un atto di insensata violenza che lascia l'Italia sgomenta. Con un messaggio alla regina Elisabetta, il presidente della Repubblica Mattarella commenta così l'attentato di Manchester. Un attacco vigliacco e odioso rivolto all'Europa. Gli fa eco il premier Gentiloni, che ha chiamato Theresa May per esprimerle la solidarietà del governo italiano. Gentiloni ha poi anticipato che si sta lavorando perché dal G7 di Taormina arrivi una presa di posizione forte contro il terrorismo. Abbiamo un'occasione per ribadire insieme a Taormina che la vigliaccheria di chi spezza le vite di giovani ragazze e di giovani ragazzi non avrà la meglio sulla nostra libertà. Luci del Colosseo spente a mezzanotte per solidarietà alle vittime di Manchester e invece l'annuncio del ministro dei beni culturali Franceschini. Sul fronte della sicurezza l'allerta resta alta, aggiunge il ministro dell'Interno Minniti, che nel pomeriggio ha convocato al Viminale i vertici di forze dell'ordine e servizi segreti, ai quali ha chiesto di rafforzare la vigilanza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio e dei luoghi che registrano una particolare affluenza di persone. Andrea Viale, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E da Betlemme questa mattina sono arrivate le parole del presidente americano Donald Trump. Tante giovani, belle, innocenti persone che si stavano divertendo, dice, e godendo la vita, uccise da malvagi perdenti, così ha detto il presidente americano, che come dicevo è atterrato oggi a Roma nel pomeriggio, in una città blindatissima naturalmente. Domani sarà in Vaticano per l'incontro con il Papa alla ricerca di un dialogo dopo mesi di rapporti piuttosto difficili. Colloqui poi anche al Quirinale con Mattarella e a Villa Taverna con Gentiloni. Questa mattina a Gerusalemme Trump ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen e si è impegnato a un accordo di pace tra israeliani e palestinesi, senza però mai parlare di due stati. Una visita che dà speranze per una pace giusta, ha detto il leader palestinese. Intanto, dall'ex capo della CIA Brennan arrivano nuove accuse nell'ambito del Russia Gate e del viaggio poi di Trump. Torneremo a parlare nel corso di Effetto Notte. Parliamo adesso del 25esimo anniversario della strage di Capaci. Oggi ci sono state le celebrazioni a Palermo. Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone. Il silenzio suonato da un agente davanti all'albero Falcone a Palermo ha scandito 25 anni dopo l'ora del botto che ha fatto saltare a Capaci Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. È stato il momento culminante di una lunga giornata dedicata alla memoria e alla riflessione, cominciata con l'arrivo delle navi della legalità, proseguita poi all'aula bunker del carcere del Lucciardone, anniversario della strage ricordato in tutta Italia da almeno 70.000 studenti, quegli studenti cui si è rivolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che intervenendo alla cerimonia nell'aula bunker ha detto: mi rivolgo particolarmente a voi ragazzi, oggi per il futuro le idee, la tensione morale di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino camminano anche sulle vostre gambe, sulle vostre idee, sui vostri comportamenti. Il presidente ha fatto appello alle istituzioni, non è necessario limitarsi al dolore e al ricordo. Falcone e Borsellino, ha detto, sono morti per sollecitare un impegno concreto contro la mafia. Un appello alla politica invece a ripulire le liste è arrivato da Rosi Bindi, presidente della Commissione Antimafia, e dal ministro dell'Interno Marco Minniti. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E siamo alla politica italiana, il dibattito sempre dominato dalla legge elettorale. Il PD va avanti sul Rosatellum, ma l'opposizione insorge. Il disegno di legge elettorale viene adottato come testo base in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Prevede il 50% dei seggi col proporzionale e il 50% col maggioritario. Matteo Renzi vuole stringere i tempi e andare al voto in autunno, prima della legge di stabilità. Le probabilità però che il Rosatellum passi l'esame del Senato sono piuttosto esigue. Così Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Le elezioni arriveranno presto, ci saranno magari in autunno, solo se il Movimento 5 Stelle parteciperà alla formazione della nuova legge elettorale, altrimenti loro dovranno partecipare al Vietnam del Senato. E Renzi potrebbe cedere all'accordo con Silvio Berlusconi, virare verso il sistema tedesco proporzionale con sbarramento al 5%. Toccherà a Francesco Paolo Sisto, deputato azzurro in commissione, presentare gli emendamenti per le modifiche. Intanto Renzi convoca la direzione nazionale PD per il 30 giugno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca adesso: è morta all'ospedale Bufalini di Cesena Giulia Wilhenner, 31 anni, triatleta tedesca, rimasta vittima di un incidente stradale in allenamento al Passo delle Forche nel Forlivese il 15 maggio. I suoi organi sono stati trapiantati, stesso destino della povera triatleta anche in questo dell'ex campione di MotoGP Nick Hayden, che è morto ieri. Anche lui oggi i suoi familiari hanno donato gli organi, così come aveva dichiarato in vita. E ora un lutto nel cinema. A 89 anni se n'è andato l'attore britannico Roger Moore, 7 volte James Bond, dotato di un'eleganza aristocratica, di un irresistibile humor britannico. Lo smoking lo portava Moore come se lo avesse cucito addosso, perfetta incarnazione del gentiluomo inglese. È stato il James Bond più duraturo, è stato, se state sentendo la colonna sonora del suo primo film da 007, Vivi e lascia morire. L'ultimo invece del James Bond di Roger Moore nel 1985 è 007 Bersaglio mobile. A parte 007, Moore è stato un popolarissimo attore di cinema e televisione, della TV in particolare negli anni 60. È da ricordare il grande successo di Attenti a quei due, telefilm che negli anni 70 lo vede al fianco di Tony Curtis. È stato anche ambasciatore dell'UNICEF. Per chiudere il ciclismo, Vincenzo Nibali ha vinto battendo allo sprint lo spagnolo Mikel Landa alla 16ª tappa del 100° Giro d'Italia di ciclismo, da Rovetta a Bergamo, in provincia di Bergamo, a Bormio, in provincia di Sondrio, lunga 222 km. Più duro del Mortirolo, più grande dello Stelvio, Vincenzo Nibali trionfa sul traguardo di Bormio. Grande in salita, strepitoso in discesa e prima vittoria italiana di questa edizione del Giro 100. In una tappa epica il siciliano batte in volata Mikel Landa, stacca Quintana e fa il vuoto su Dumoulin, appiedato da un guaio intestinale, ma l'olandese conserva la maglia rosa. Gli ultimi 30 km di fuoco rasentano la magia. Attacchi e controattacchi tra Nibali e Quintana sull'Umbral Pass, il versante inedito dello Stelvio, dove Landa scollina per primo, poi viene ripreso in discesa dal ritmo forsennato del siciliano, dove ha tenuto il colombiano a debita distanza. Ma è stato un attacco intestinale accusato dalla maglia rosa Tom Dumoulin, il vero colpo di scena della giornata, costretto a fermarsi prima dell'Umbral Pass, a ripartire e a scalare l'ultima salita tutto da solo. La nuova classifica generale vede Dumoulin stoico in rosa, ma soltanto con 31 secondi di vantaggio su Quintana e 1,12 su Nibali. Tutto riaperto per un giro fantastico e domani si sale ancora. Per Augusto Stagio, Radio 24, Sole 24 Ore, Bormio. E con il ciclismo direi che è finito, quindi il riassunto della giornata come sempre. Adesso sapete che c'è la viabilità per aggiornare chi sta viaggiando e poi ritorniamo insieme, partendo naturalmente dall'attentato di Manchester. Per i vostri commenti c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggio WhatsApp che è 349-238-6666. Maria da Roma scrive: purtroppo i terroristi come eredità lasceranno solo l'odio e questa è la cosa che più di tutte mi addolora. Dice poi Claudio da Milano: Roberta, bombe e guerre giuste da Bush padre a figlio, Cameron, Sarkozy, tra Iraq, Siria e Libia per le risorse petrolifere, loro si vendicano, dice Claudio. E poi molti altri messaggi, per esempio questo di Francesco che dice: le analisi si assomigliano perché ogni attentato sembra obbedire allo stesso canovaccio, proprio su questo bisognerebbe riflettere in Gran Bretagna. Inoltre esistono perfino i tribunali della Sharia, ma sarebbe il momento di interrogarsi sulla validità di questo modello di integrazione. In effetti ne parleremo tra poco. Progetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, i vostri messaggi continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in ogni momento, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Quindi avete sentito il riassunto dei fatti principali, delle notizie di oggi. Naturalmente in primo piano c'è la strage di Manchester, di cui parleremo tra pochissimo. E intanto, fra poco vi ricordo comunque anche le altre notizie principali, perché non tutti accendono puntualmente alle 21. Altri vostri messaggi. Stefano dice non c'è più niente da dire perché Sala e Maiorino, cioè il sindaco di Milano e l'assessore Maiorino, dice non organizzano una manifestazione contro il terrore invece di organizzare manifestazioni a favore dell'Islam. A parte Stefano, che non era quella di domenica una manifestazione a favore dell'Islam, ma era un modo, insomma, di cercare di mediare sull'accoglienza. C'erano state tensioni nei giorni precedenti, insomma, quindi hanno ritenuto opportuno fare questo tipo di manifestazione, ma non era pro-Islam, almeno non pro-Islam integralista. Cristiano dice è proprio così, e questo è un nuovo dramma, nel senso che c'è poco da dire, è un nuovo dramma nel dramma, l'impotenza che quasi svuota e avvilisce ogni commento. Stefano dice, a parte le banali dichiarazioni del presidente, dei presidentini vari, vegli e palloncini vari, per l'ennesima volta che cosa fare concretamente? Non si può vivere e morire così. Vediamo se tra poco riusciamo a raggiungere questo analista italo-inglese in Gran Bretagna. E intanto dovrebbe esserci in collegamento tra pochissimo il corrispondente del Sole 24 Ore, sempre dalla Gran Bretagna. Però se non avete acceso puntualmente, queste sono le notizie principali di oggi. Kamikaze al concerto alla Manchester Arena, strage di ragazzi, almeno 22 morti. Il killer è un britannico di origini libiche e l'ISIS rivendica la strage. Allarme in Europa con la prima ministra britannica May che dice i terroristi non vinceranno mai, e il Viminale, il nostro ministero dell'interno, che comunica che c'è attenzione alta e vigilanza sui luoghi affollati, quindi rinforza le misure di sicurezza anche per la visita di Trump a Roma. Sapete che è atterrato oggi a Fiumicino, domani vedrà il Papa alla ricerca di un dialogo dopo periodi difficili, diciamo, di rapporti, e poi vedrà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Sono passati 25 anni dalla strage di Capaci, dove morì Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta, e ci sono state le celebrazioni a Palermo, era presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella. E poi Roger Moore se ne va, James Bond in 7 film, è stato James Bond, è morto in Svizzera dopo una battaglia contro il cancro. Questo è il drammatico audio tratto da un breve video che ha fatto il giro del mondo alla strage di Manchester, il terribile attentato terroristico di ieri sera al termine del concerto della pop star americana Ariana Grande, che è idolo dei teenager a 23 anni. Pensate che ha 46 milioni di follower, quindi immaginate l'entusiasmo, la gioia di quanti ragazzini e ragazzine soprattutto erano presenti ieri a questo concerto. Almeno 22 i morti confermati per il momento, 120 feriti. Il bilancio purtroppo potrebbe aggravarsi perché ci sono molti ragazzini e bambini in condizioni disperate, ci sono vari dispersi tra l'altro, quindi immaginate anche l'angoscia dei genitori. Ariana Grande ha twittato subito dopo il concerto: sono distrutta, non ho parole, in bilico anche il suo tour in giro per il mondo, dovrebbe fare anche 2 tappe in Italia a giugno. L'esplosione è stata provocata da un kamikaze, la polizia ha confermato che si tratta di un cittadino libico britannico di 22 anni, il suo nome è Salman Abedi e pare che fosse noto alle autorità britanniche. C'è stata la rivendicazione dell'ISIS, pare, lo chiedo conferma a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Leonardo? Sì, pronto, mi sentite? Sì, ora ti sento Leonardo. C'è stata una rivendicazione dell'ISIS attraverso i canali che utilizza normalmente per rivendicare l'attentato. Su Salman Abedi in realtà ci sono versioni contrastanti, alcuni dicono che era una persona assolutamente schiva, il fatto che lui potesse essere coinvolto in attività del genere ha sorpreso la comunità islamica di Manchester, altri dicono che invece in altre occasioni aveva manifestato una particolare, come dire, una atteggiamento particolarmente ostile nei confronti di un imam di una moschea di Didsbury in Gran Bretagna, dove aveva contestato, come dire, il sermone anti-ISIS e anti-radicalismo islamico di questo imam, che quindi aveva individuato in qualche modo in Salman Abedi una figura pericolosa. Che lui fosse noto alle autorità si sa, però è cittadino, voi avete detto prima, libico-britannico, è cittadino britannico di origine libica. Cioè i genitori erano scappati dalla Libia, mi sembra. Sì, Leonardo. Esattamente, però lui è nato e cresciuto, cioè a tutti gli effetti era di Manchester, cioè incrociava quelle stesse strade dove camminavano gran parte delle 21.000 persone che ieri l'altra notte erano all'arena di Manchester per il concerto. Senti, quindi tu ci aggiornavi anche appunto sulle piste investigative, nel senso qualcuno l'ha presentato in un modo, qualcuno in un altro, però sembra confermato che si trattasse di lui. Mi pare che sia stato arrestato un 23enne che potrebbe essere il fratello, Leonardo? No, il fratello sembra che sia stato assolutamente sollevato dalla vicenda. È stato arrestato un'altra persona e anche il fratello è stato fermato, però sull'identità di questa persona e soprattutto sul ruolo che avrebbe giocato non ci sono certezze. Cioè, quello che è certo, da quanto hanno detto gli inquirenti, è che Salman Abedi era da solo nella Manchester Arena per l'attentato. Chi lo abbia aiutato, perché comunque anche se non era un'operazione altamente sofisticata come quella di Parigi, dove c'erano più commandos che si muovono, comunque implica come dire, una conoscenza degli esplosivi, la capacità di recuperare il materiale, che in Gran Bretagna non è così facilmente recuperabile, di allestire una bomba, seppure rudimentale, eccetera. Quindi è legittimo il sospetto che sia stato aiutato. Senti, questo giovane che è stato, quest'altro giovane che è stato fermato, come dire, il suo braccio destro nell'operazione, questo bisognerà vederlo. Leonardo, per chiudere, questo dicono da più parti potrebbe in qualche modo condizionare la campagna elettorale in Gran Bretagna, dove si vota l'8 giugno, no? Secondo me in realtà fino a un certo punto, nel senso che Theresa May è saldamente in testa alle elezioni con i suoi conservatori, è percepita oltretutto fra i due, diciamo, partiti principali, conservatori e laburisti, certamente come l'esponente più capace, più in grado di gestire un'eventuale emergenza terroristica, anche perché lei è stata ministro degli interni, quindi ha un'esperienza diretta di questo tipo di attività. Quindi sono convinto che tutto sommato forse i conservatori si rafforzeranno un po', ma i partiti, diciamo, estremi dell'estrema destra, i più come dire, scettici verso qualsiasi forma di immigrazione, anche se qui non parliamo di immigrazione, lo ribadisco, parliamo di un cittadino britannico, potrebbero comunque prendere dei consensi che fino a ieri non si immaginava potessero avere. Senti, invece questo fatto, proprio per chiudere, Leonardo, poi ci dobbiamo lasciare, che non so, sia Gentiloni che Macron, il neo presidente francese, hanno detto è stato portato un attacco a tutta l'Europa, no? Non fa venir voglia la Gran Bretagna di risentirsi parte dell'Unione Europea? In realtà da questo punto di vista continueremo ad essere sempre tutti europei, nel senso che la dimensione è quella, è uguale per tutti. È certo che la sensazione di una possibile risposta congiunta, coordinata, integrata da parte dei membri di un'unione è secondo me un elemento di ulteriore forza e solidità. La Gran Bretagna cercherà, per vedere i negoziati come andranno avanti, a continuare a partecipare alle forme di sicurezza comune, ma certo avrà un ruolo più defilato. Grazie Leonardo Maisano da Londra. Ciao Leonardo. Grazie a voi, arrivederci. E adesso saluto Raffaello Pantucci, che è direttore degli studi sulla sicurezza internazionale al Royal United Services Institute. Buonasera Pantucci. Buonasera. Grazie della disponibilità. Senta, diceva questo ascoltatore, fra gli altri, Francesco, dice: in Gran Bretagna esistono perfino i tribunali della Sharia, no? Quindi della legge islamica. Dice: ma sarebbe il momento di interrogarsi sulla validità di questo modello di integrazione. Lei che ne pensa? Ma non so se è veramente giusto collegare il fatto che c'è della gente di religioni islamiche in questo paese che decide di usare queste leggi fra di loro per determinare certe cose. Queste leggi, questi corti di Sharia non sono una cosa che sono al di là o sopra la legge nazionale. Quello sopra e soprattutto questi corti di Sharia sono un tipo di corte che sono decisi fra gente che sono tutti comuni, decide che questa è una legge che vogliono seguire. Però no, ma non è una rischia cosa di creare che... uno Stato nello Stato però, Tucci, tutto questo? Ma, un gruppo di persone che decidono di vivere la loro vita in questo modo è una cosa che possono fare. Non so se possiamo determinare queste, non so se è adatto, è utile determinare queste cose e dire che sono illegali, anche perché non è che ci sono solo corti islamiche in questo paese, ci sono anche corti ebraiche, ci sono anche delle altre tipi di corte che esistono, che sono insomma un tipo di determinazione che la gente fa fra di loro invece di una cosa legittima nello Stato. La legge dello Stato è quella che è superiore a tutti quanti, e se quello che queste corti di Sharia sta facendo contravviene la legge dello Stato domina tutto. Ho capito, Pantucci, ma lei che è direttore, dicevo, degli studi sulla sicurezza internazionale del Royal United Services Institute, di fronte a questo ulteriore attentato in Europa, e poi già la stessa Gran Bretagna è stata colpita duramente, no? Qualche tempo fa, quell'attentatore mezzo sbandato che comunque in qualche modo faceva capo all'islamismo integralista, che aveva cercato di entrare dentro Westminster, e poi nel 2005 ricordiamo anche l'attentato in metropolitana che fece più di 50 morti, no? 500 feriti. Sì. Significa che quindi non bastano mai le misure di sicurezza, vogliamo dirci questo? Diciamo che è difficile bloccare tutto. Se hai una persona che è talmente determinata a fare una cosa che è disposta a morire mentre lo fa, hai un caso molto difficile da bloccare. Puoi fare quello che puoi, però a un certo punto, se la persona si nasconde a sufficienza e se riesce a creare, a usare un coltello, una macchina o creare una bomba per farsi esplodere in questo modo, diventa una cosa molto difficile da bloccare. Però penso che se guardiamo la storia dell'Inghilterra dall'attentato negli Stati Uniti del 2001, abbiamo avuto adesso 3 o 4 attentati di stile islamista, nella quale meno di 100 persone sono morte, e poi abbiamo avuto 2 attentati di stile dell'estrema destra, dove sono morte altre 2 persone. Stiamo parlando di meno di 100 persone ammazzate in un periodo di 16 anni a questo punto, che tutto sommato non è una cifra cioè è una cosa terribile per ogni famiglia che perde un parente o un familiare in questo modo, però ci sono tante altre cose che possono accadere, e il fatto che la minaccia terrorista è una che abbiamo mantenuto fino a questo livello è una cosa che è un successo, diciamo, per i servizi e per i servizi di sicurezza qui in Inghilterra. Però rimane il problema del terrorismo nella società organizzata, che purtroppo sembra di essere una cosa che continua ad esistere nonostante tutte le misure di sicurezza che si fanno. Teresa May, la prima ministra, che oggi ha riunito il comitato per le emergenze, il COBRA, ha detto: temo altri attacchi. Sì, a questo punto sono preoccupati sempre, perché ogni volta che c'è un attentato la prima cosa da scoprire è se l'individuo era da solo, e se non era solo chi sono gli altri, e se ci sono altri attentati che magari possono arrivare. Il fatto che in questo caso particolare abbiamo una bomba che è stata costruita, il fatto che lui si è ammazzato usando questa bomba, suggerisce che magari ci sia qualcosa di più intorno a lui, perché il fatto di costruire una bomba di solito richiede una certa, un certo livello di expertise, di esperienza, che di solito uno riceve da un gruppo più di una cosa che si trova da solo sull'internet, per esempio. Però questo suggerisce che ci sia una cellula più grande intorno di lui. Allora la prima cosa per i servizi è di trovare queste persone. La seconda preoccupazione è che ogni volta che vedi un attacco che ha successo, c'è sempre gente che tenta di emularlo. Ci sono quelli che dicono: ah, adesso è il momento di fare l'attentato che io stavo pensando di fare da tanto tempo, perché vedo che adesso è il momento che ci sono tutte queste altre cose che succedono. Ogni volta che vediamo che ci sono stati altri attentati di successo nel passato, si vede di solito nei prossimi giorni che ci sono altri che magari fanno cose. È sempre difficile sapere se sono direttamente collegati, però di solito c'è un livello almeno di spinta che ricevono nelle loro menti dall'attentato che ha avuto così tanto successo. Vedono che questa è una cosa che può attirare attenzione, e allora lo voglio fare anch'io. Nadia scrive: non entro in merito alla strage che non trova parole, ma tutto parte dall'individuo. Ciò che mi ha colpito è che a 22 anni mi chiedo cosa muove un giovane che dovrebbe avere tanti altri pensieri a quell'età. Chi sono i giovani oggi? Ma Raffaello Pantucci, per lasciarci, lei ravvisa qualcosa di particolare in questo attentato di ieri sera, a parte il fatto appunto di aver avuto nel mirino, nell'obiettivo, tantissimi ragazzini, ragazzine, no? Questo era il pubblico di Ariana Grande. Sì, no, questo è il fatto che il mirino era su questi bimbi, è una cosa veramente atroce che spaventa e preoccupa subito e ti fa pensare veramente a queste povere famiglie che stanno soffrendo adesso. Altrimenti il fatto che ci è stato messo così tanto tempo da avere un attacco di questo livello è una cosa che un po' alza un po' la preoccupazione, perché da qui in Inghilterra è da 2014 che abbiamo il livello di sicurezza all'altezza che si chiama severe, che vuol dire che i servizi qui si aspettano un attentato da giorno a giorno. Sono molto preoccupato in questa situazione. Il fatto che ci abbiamo messo 3 anni di avere qualcosa di questo livello è da un lato buono, però dall'altro lato è preoccupante, perché uno si chiede: se questo è riuscito a succedere, cos'altro ci potrebbe essere? Perché a un certo punto, se hai servizi che sono a un livello di pressione così alta per un periodo così esteso, you know, quante altre cose potrebbero magari arrivare? Già, ci lasciamo con questa angosciante domanda. Raffaello Pantucci, la ringrazio. Grazie direttore, ricordo, direttore degli studi sulla sicurezza internazionale al Royal United Services Institute di Londra. Bene, diciamo che per il momento prendiamo un po' di respiro, continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato quindi dell'attentato di Manchester e adesso direi di concentrarci sul viaggio di Trump, che oggi alle 18.30 è sbarcato e atterrato a Fiumicino, all'aeroporto di Fiumicino, è andato a Villa Taverna, che è la sede dell'ambasciata americana, e poi domani ci sarà una giornata fittissima. Vi ricordo molto brevemente le notizie principali, che sono appunto l'attentato a Manchester, sono 22 i morti tra bambini e adolescenti, 12 dispersi, 120 feriti. Il kamikaze è un cittadino britannico di origini libiche di 22 anni, noto alla polizia. L'ISIS rivendica la strage. Allarme in Europa, la prima ministra britannica May sottolinea: i terroristi non vinceranno mai. Il Viminale comunica attenzione alta e vigilanza nei luoghi affollati. Trump a Roma, ne parleremo tra pochissimo. La strage di Capaci 25 anni dopo, l'Italia ricorda Falcone, Mattarella gli rende omaggio a Palermo, e poi è morta la triatleta tedesca, come Nick Hayden, era rimasta vittima di un incidente stradale travolta da un camion in Romagna, è ricoverata al Bufalini di Cesena, ha donato gli organi. Addio Roger Moore, aristocratico ironico, fu 7 volte James Bond, aveva 89 anni. Quindi prosegue il primo tour internazionale del presidente americano Donald Trump, dopo essere stato in Arabia Saudita e poi ieri in Israele. Oggi, per la terza tappa di questo suo primo viaggio all'estero, è arrivato a Roma, una capitale naturalmente blindatissima con ingenti misure di sicurezza, ad accoglierlo a Fiumicino Trump e la moglie Melania. È stato il ministro dell'interno degli esteri Alfano, e poi sono arrivate anche la figlia Ivanka, il marito di lei, il genero Jared Kushner, e in realtà poi ha una delegazione di 900 persone Trump al suo seguito. Vi dicevo, andato a Villa Taverna, e poi domani questa giornata fitta di impegni, l'incontro col Papa, poi col Presidente Mattarella. Ieri a Tel Aviv ha rinsaldato il rapporto, l'amicizia tra Stati Uniti e Israele, ha rilanciato il negoziato di pace tra israeliani e palestinesi e ha incontrato poi il Presidente palestinese Abu Mazen, anche se non ha mai parlato di due stati. Ha tuonato contro l'Iran, che ha detto non avrà mai l'arma nucleare. Teheran ha replicato contestando il maxi contratto di 110 miliardi di dollari per la fornitura di armi all'Arabia Saudita, e poi domani nel pomeriggio andrà anche a Bruxelles. Insomma, quindi giornata intensissima. Ne voglio parlare con Francesco Tosato, analista del CESI, il Centro Studi Internazionali. Buonasera Tosato. Buonasera a lei, ascoltatori. Come commenta per ora questo tour di Trump, le dichiarazioni che ha fatto, l'amicizia rinsaldata con Israele, il fatto di voler rilanciare il negoziato ma senza mai parlare di due stati, adesso il bisogno anche di riallacciare un po' il dialogo col Papa, no? Beh sì, diciamo che questa prima visita del presidente Trump arriva quanto mai opportuna anche per lasciare un po' da parte le polemiche interne, soprattutto per quanto riguarda le problematiche delle relazioni tra il suo entourage e la Russia. Conseguentemente questa visita rientra in una più ampia prospettiva di poter dare dei primi segnali per quanto riguarda la politica estera. Diciamo che c'è stata immediatamente una sterzata notevole rispetto agli anni di Obama, come lei ha esattamente ricordato prima, ovvero relativamente a un rinsaldare quelli che sono stati, diciamo, i due pilastri della politica medio orientale degli Stati Uniti fino alla presidenza Obama, ovvero il rapporto con l'Arabia Saudita e quindi con il mondo sunnita e il rapporto con Israele. In antitesi ovviamente all'asse sciita rappresentato da Teheran e dall'Iran. Quindi l'accordo che ha suggellato per i prossimi anni la vendita di 110 miliardi di dollari di armamenti, che diventeranno 300 lungo il ciclo di vita dei prodotti che sono stati poi acquistati dai sauditi, ovviamente è una sorta di garanzia per il futuro geopolitico nell'area della penisola arabica per Riyadh. E allo stesso tempo le aperture che ha fatto il presidente rispetto al negoziato con i palestinesi nella sua visita in Israele comunque diciamo sono molto di marca israeliana, ecco. Quindi già questo non riconoscere più come necessaria la soluzione dei due stati è qualcosa che va molto negli interessi dell'attuale governo di Tel Aviv. Tosato, abbiamo ancora un minuto per dire che domani, appunto, dopo aver incontrato il Papa e poi il presidente Mattarella, sarà a Bruxelles per incontrare le istituzioni che ha tanto attaccato in campagna elettorale, quindi l'Unione Europea e la NATO. Sì, questo sarà un altro bel punto, nel senso che per quanto riguarda la NATO ci sarà il solito refrain del 2% delle spese da dedicare alla difesa da parte dei paesi europei, così come da impegni sottoscritti nel 2014, e sarà una trattativa piuttosto dura, perché per i paesi europei, faccio un esempio il nostro, significa praticamente duplicare le spese rispetto alla quota di PIL che dedichiamo alla difesa attualmente, che è l'1.1%, una cosa non sostenibile nel breve periodo per le note condizioni finanziarie del paese. Dall'altra parte, sull'Unione Europea qui la dialettica sarà più aspra, perché comunque l'amministrazione americana è lanciata sui rapporti bilaterali, quindi non riconosce tanto il valore diplomatico di Bruxelles quanto vuole costruire le relazioni in maniera che siano più favorevoli a lei su base bilaterali con l'Italia, con la Francia, con gli altri paesi. Quindi questo sarà sicuramente un tema che non renderà facile il confronto. Grazie Francesco Tosato del CESI. Grazie e buona serata. Arrivederci. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo adesso in pochi secondi le principali. Roberta Giordano sempre con voi fino alle 22. L'attentato a Manchester, sono 22 i morti tra bambini e adolescenti a causa di un kamikaze, 12 dispersi, 120 feriti. E il kamikaze sarebbe un britannico di origini libiche di 22 anni, noto alla polizia. L'ISIS ha rivendicato questa strage. Allarme in Europa, la prima ministra britannica May sottolinea che i terroristi non vinceranno mai e si rinforzano le misure di sicurezza anche in Italia, anche perché Trump è arrivato a Roma, capitale blindata, domani l'incontro con il Papa e con Mattarella. A Palermo ci sono state le celebrazioni per i 25 anni dalla strage di Capaci e poi è morta la triatleta tedesca Julia Wilhelner, 31 anni, che era stata vittima di un incidente stradale. Addio Roger Moore, aristocratico ironico, fu 7 volte James Bond, aveva 89 anni. E per il ciclismo Nibali trionfa nella 16ª tappa del 100° Giro d'Italia. E adesso è tempo di cinema col Festival Internazionale del Cinema di Cannes, dove c'è l'inviata del Sole 24 Ore, Cristina Battocletti. Cara Cristina, buonasera. Buonasera a voi. Cristina, a che punto è quindi la kermesse, è il caso di dire, visto che siamo in Francia, la competizione filmica per aggiudicarsi questa Palma d'Oro? Beh, siamo in finale di oggi, possiamo dire che sono passati gli ultimi due film italiani, che sono quelli di Annarita Zambrano, Dopo la guerra, nella sezione Uncertain Regard, e poi c'è stato Cuori puri di Roberto De Paolis alla Kenzen, che sono due film molto diversi. Diciamo, il primo racconta di un rinnovato terrorismo, siamo a Bologna e si parla essenzialmente dell'uccisione di Marco Biagi nel e 2002, del terrorista, no? Battisti. Giuslaborista nel 2002, ucciso a marzo 2002, Marco Biagi. E quindi esatto, il film inizia con una scena molto forte, che è la contestazione studentesca sull'articolo 18. E poi invece l'altro film è un film che riguarda la periferia. Abbiamo detto che altri due film italiani hanno esplorato questo mondo e l'ha fatto in maniera molto buona Roberto De Paolis, che racconta la storia d'amore tra due giovani che uno al confine con la malavita e l'altra con l'estremismo religioso cattolico. Due mondi paralleli che si incontrano. Cuori puri si chiama questo film. Esatto, e riguarda la verginità in tutti i sensi, dell'innocenza, la verginità anche sessuale, insomma è un tema strano che riguarda anche la nostra verginità nei confronti del diverso. A tuo giudizio, Cristina, quindi, allora, intanto quando è, cos'è, domenica che si assegna la Palma d'Oro? Esatto, esatto, possiamo fare solo una previsione, io sono sicura che prenderà qualcosa il film russo, Loveless, Senza amore, credo che prenderà una qualcosa il film di stamattina di Naomi Cavase, che riguarda, diciamo, la perdita della vista da parte di un fotografo e la perdita, diciamo, dei genitori da parte di un assistente che cerca di spiegare alle persone non videnti il cinema. Molto strano, bello, di fascino, forse un finale quindi un po' troppo zuccheroso. Cristina, invece con te volevo anche ricordare un grande attore molto amato, il britannico Roger Moore, che è scomparso a 89 anni, no? Il più longevo nei panni di 007, 7 volte è stato James Bond, e io dal mio gusto personale devo dire che è stato il vero James Bond, anche se tutti dicono Sean Connery, però a me piaceva più lui perché aveva quest'aria ironica e aristocratica insieme, lui che ha introdotto un po' lo humor britannico nel personaggio di James Bond, no Cristina? Sì, poi anche fisicamente era estremamente elegante, insomma a un certo punto ha battuto al botteghino Sean Connery, perché lui interpretava Octopussy, Operazione Piovra, sì. E invece Bond, c'era un Bond apocrifo, mai dire mai, e di pochi dollari però è riuscito a battere al botteghino Sean Connery. Quindi il record degli incassi ce l'ha lui, ma io vorrei, non so se tu ti ricordi Cristina, stiamo parlando degli anni 70, seconda metà degli anni 70 se non sbaglio, e Roger Moore è diventato famoso con un telefilm che poi è arrivato in Italia appunto a metà anni 70, Attenti a quei due con Tony Curtis, non so se te lo ricordi. È come dimenticarlo, eravamo tutti incollati alla televisione, erano 24 episodi, me lo ricordo bellissimo, c'era Sinclair contro Wilde ed erano degli scellerati simpaticissimi, simpaticissima coppia. Poi c'era anche Il Santo, se ti ricordi, 6 stagioni, dove lui interpretava il ladro gentleman, sì. Simon Templar. Poi è stato anche Ivanhoe, Sir Wilfred, in una serie trasmessa negli anni 60. Un grande attore, un grandissimo attore, lo ricordiamo così, avrebbe fatto 90 anni a ottobre, una vita longeva e insomma anche una grande carriera splendente. Grazie Cristina Battocletti da Cannes. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Grande quindi Roger Moore, grandissimo. Tra l'altro leggevo che Anthony Lake, direttore generale di UNICEF, ha scritto: con Sir Roger Moore il mondo perde uno dei più grandi sostenitori dei bambini, l'intera famiglia dell'UNICEF ha perso un grande amico, perché è stato anche un ambasciatore dell'UNICEF, nonché un grande sostenitore delle campagne a favore degli animali, quindi un personaggio bello, possiamo dire, a tutto tondo. Intanto ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Questo ascoltatore che non si firma, dico sempre mettete almeno un nome d'arte, dice: l'effetto collaterale dei messaggi dell'ISIS è, due punti, squilibrati di tutto il mondo, armatevi. In effetti purtroppo è uno degli effetti. Poi, scusate il bisticcio di parole, Gianni da Milano: ma come si spiega che dopo l'attentato si sa chi era, da dove proveniva e che era anche tenuto d'occhio? Ma cosa dobbiamo pensare noi semplici cittadini? In effetti è un po' l'ennesimo caso di qualcuno che era noto, questa è la frase, era noto alle forze dell'ordine. Sarà anche che le forze dell'ordine non riescono a controllare tutti, o almeno li controllano, sono sospetti, ma non possono, non hanno magari sempre gli elementi purtroppo per fermarli, per arrestarli, per comunque bloccarli prima di qualche evento infausto e di qualche attentato. Poi c'è Andrea che dice: secondo me lo scopo degli attentati è accelerare la creazione di uno stato di tensione, di terrore, di conflitto con il mondo arabo, scontro di civiltà, dice, ma non solo, perché da una parte inoculare il virus della paura paralizza e blocca le coscienze, dall'altra lo stato di tensione permette di far passare leggi e decreti ad hoc con la scusa del terrorismo, che andranno a limitare sempre più le libertà individuali. Insomma, diciamo, scenari certamente non confortanti e purtroppo per il momento la situazione è questa. Ci risentiamo alle 22:00.